come dire, siamo d'accordo, siamo un po' tra lo sportivo e l'amichevole. E una sera quando eravamo in pizzeria e parlavamo del più e del meno, che mi disse che praticamente non pensava, lui dice: Giorgio, non ti rendi conto, io non credevo che la vita fosse così lunga, che arrivasse a così tanto. Negli ultimi tempi, proprio perché lui aveva questa malattia, il Parkinson e l'Alzheimer, aveva scarsa memoria, dimenticava le cose, stava spesso male, quindi lo andavo a trovare molto più spesso, quotidianamente, a volte anche due volte al giorno, per vedere come stava, se mangiava, se prendeva le medicine. Purtroppo lui era solo, comunque la sua compagna lo aveva abbandonato, e a volte arrivavo a casa sua la mattina che lui non c'era, già era uscito di buon'ora. L'intenzione sua era quella, sempre quella di partire, sempre quella di viaggiare, di andare a raggiungere qualcuno che magari neanche c'era più. E questo poi, ecco, l'ha portato quel fatidico giorno a prendere, partire, ad andare alla stazione per raggiungere chissà quale meta. Il 12 febbraio 2001, a Roma, alle 6:30 di mattina, un treno travolge un uomo dall'aspetto trasandato che camminava sui binari della ferrovia nei pressi di Porta Maggiore. La tesi del suicidio verrà presto esclusa. Più probabile rimarrà l'ipotesi di un forte stato confusionale. Gianni Minà, lei come ha conosciuto Tiberio Mitri? L'ho conosciuto perché ero un giovane giornalista sportivo, facevo il galoppino, andavo a conoscere i protagonisti che poi i giornalisti più anziani avrebbero intervistato o dei quali avrebbero scritto. Mi è capitato così di battermi in Tiberio Mitri. Cosa l'ha colpita di questo personaggio? Beh, il romanticismo e anche questo fatto che era un pugile non incolto. Allora un pugile non aveva il tempo né le possibilità di studiare. Dove aveva studiato? Come mai aveva questa cultura? Aveva fatto le scuole medie, è la cosa più semplice. Già tanto per un pugile, questo vuole dire. Allora sì. Mitri si fidanza con Fulvia Franco, una storia moderna, sembra una storia di oggi, ma alla fine più amore o finzione? No, è stato un grande amore, poi purtroppo anche grandi amori possono finire. Credo che a un certo momento Fulvia abbia avuto il richiamo del cinema e il matrimonio e crescere dei figli diventa difficile. Tiberio perse il suo tentativo mondiale a New York contro Jack LaMotta, toro scatenato, quello che poi anni dopo Robert De Niro avrebbe portato sullo schermo per la regia di Martin Scorsese, e perse ai punti quell'incontro. Già perdere ai punti contro un campione come Jack LaMotta significava essere di valore. Ecco, appunto, quell'incontro americano con Jack LaMotta, fu questo poi il momento di non ritorno della sua carriera? No, perché poi lui ha fatto il cinema, ha fatto 20 anni di cinema e anche alcuni film non banali e non di poco valore. E di quella come pugile però? Beh, quella come pugile è segnata per tutti i pugili. A un certo momento perdi il match della vita e non, da quel momento in poi puoi ancora esistere come lui è esistito per un po' di anni nel pugilato, ma non avere più la possibilità di mirare ai grandi vertici. Gianni Minà, qual è stato secondo lei il punto debole nella carriera di Mitri? Mitri era un pugile tecnico. In questo è vero, quando ha incontrato Jack LaMotta ha preso un sacco di botte, però è rimasto in piedi, è finito sconfitto ai punti. Questo dimostra che non era un pugile tanto per dire, era un campione, ha incontrato uno più forte. D'altro canto, in quell'epoca di pesi medi di valore ce n'erano, c'era anche Rocky Graziano, compagno di riformatorio di Jack LaMotta, infatti non li fecero mai incontrare fra di loro perché la gente non avrebbe creduto a un match mondiale fra due compagni di riformatorio che si volevano molto bene. Tiberio è capitato in quell'epoca dove c'erano molti pesi medi in gamba, per esempio in Francia c'era Charles Humet, un minatore, che è quello che poi sconfisse definitivamente dal punto di vista della qualità Tiberio Mitri. Ha fatto quello che poteva fare Tiberio, non di più e non di meno. Per Tiberio Mitri, alcolismo e droga che entrano poi nella sua vita, un grande pugile, un grande uomo, com'è possibile che poi sia finito così male? Ha allora il mestiere di pugile veniva amministrato da personaggi non sempre trasparenti. Pugile semplice inevitabilmente poteva scivolare in mano a questi personaggi che lo avrebbero usato. Si è scritto di lui aveva tutto, quasi tutto, per essere un grande, ma non riuscì ad esserlo fino in fondo. Lei forse un po' lo ha detto, condivide questo giudizio? No, questa è la tipica mentalità del mondo che viviamo adesso, che o vinci o non sei nessuno. Se arrivi secondo, terzo, quarto, quinto, sei un fallito. Non è vero, nella vita c'è sempre qualcuno che è più forte di te, nel pugilato più che mai, e poi è legato a così tanti difficili equilibri, salire sul ring e vincere, che è difficile anche giudicare. Ma oggi cosa è cambiato nel pugilato? Non c'è più il pugilato. Il pugilato è tramontato, perché era anche un'attività che risvegliava la voglia di riscatto di molti ragazzi del proletariato. Adesso se uno vuole cercare fortuna nello sport sceglie discipline più accessibili, la pallavolo, la pallacanestro, il beach, perfino il beach volley. Voglio dire, c'è una società che non favorisce più il compito di chi cercava nella box un riscatto. Grazie Gianni Minà.